Dal libro del Papa, pagina 6, settima riga e seguenti. Non aver paura degli uomini, l'uomo è sempre uguale, i sistemi che egli crea sono sempre imperfetti, e tanto più sono imperfetti quanto più egli è sicuro di sé. Da dove trae origine questo? Viene dal cuore dell'uomo, il nostro cuore è inquieto. Parola del Papa. Beh, se non altro abbiamo capito perché tutti i media sono concordi nel definirlo l'uomo delle certezze. Speriamo che lo capisca anche lui.